Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini per questa puntata di Respiro. Vi chiediamo subito, vi siete mai domandati se inquina un vigneto? O più in generale, se inquina l'agricoltura? La risposta è ovviamente sì, anche se non come altre attività che svolgiamo quotidianamente. Certo, per coltivare si sfruttano acqua e terra, si impiega energia, si producono molti scarti e quindi ci sono molti agricoltori che adesso si stanno domandando come fare, come ridurre il loro impatto sul pianeta. Ci sono ovviamente vari studi, ci sono varie possibilità. Noi oggi vi presentiamo un programma scientifico di ecosostenibilità per la viticoltura in particolare, messo a punto da un gruppo di ricercatori universitari coordinati dal professor Ettore Capri dell'Università Cattolica di Piacenza. Questo programma si chiama Sustain, nome che nasce come incrocio tra il classico SOS, richiesta di soccorso, e la parola sostenibilità. È un programma che punta alla sostenibilità, appunto, complessiva del sistema vitivinicolo, perché essere sostenibili significa in fondo per l'azienda garantire la propria continuità nel tempo, la possibilità di continuare a lavorare, produrre e quindi in fondo guadagnare. Con noi oggi c'è il professor Capri dell'Università Cattolica di Piacenza. Professore, il vostro programma ha già una cavia, è un'azienda siciliana, un'azienda storica siciliana, Tasca d'Almerita, che ha deciso di ripensarsi e diventare un'azienda a impatto zero. Ci racconti un po' qual è il vostro programma e che cosa farà Tasca d'Almerita? Che cavia è un'azienda pilota, ma qui se ne aggiungeranno altre. Noi affrontiamo l'argomento della sostenibilità, quindi come nuovo modello di sviluppo fortemente integrato. Non solo ci preoccupiamo di quella che è una sostenibilità vista dal punto di vista ecologico, ma ci occupiamo anche di una sostenibilità vista dal punto di vista economico, sociale e anche etico-professionale, dal punto di vista di quello sia la professione dell'agricoltore, ma anche di quelli che sono tutti i cittadini che vivono, residenti che vivono intorno alle aziende agrarie e a coloro che entrano nelle aziende agrarie come astanti oppure per semplice turismo oppure per comprare i prodotti. E quindi questa sostenibilità si intende come rispetto per l'ambiente, rispetto per le persone, quindi rispetto per il proprio lavoro e rispetto soprattutto per quelle che sono le risorse che devono essere utilizzate in modo corretto per poter permettere alle generazioni future di svolgere ed avere le nostre attività e soprattutto avere un tenore di vita, una qualità di vita che sia confrontabile al nostro. Il programma, vedo, ha delle linee comuni per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e quindi riprogrammarsi, ma ci sono anche delle azioni specifiche studiate per la singola azienda, no? Allora, le aziende che intendono seguire un programma di sostenibilità e quindi adottare quello che è il nostro modello di sviluppo sostenibile, effettuano praticamente un miglioramento di quelle che sono le proprie pratiche. Prima di tutto si autovalutano sulla base di quelle che sono delle linee guida che lei diceva, che dettagliano praticamente quelli che sono i comportamenti aziendali dell'imprenditore agricolo, quindi vuol dire come coltiva la terra, come usa l'acqua, quanto è consapevole che le sue azioni possono in qualche modo influenzare la qualità dell'acqua, come utilizza i prodotti chimici, in che quantità, con quali modalità, in quale modo instaura i rapporti con il proprio personale, in quale modo tutela il paesaggio, in quale modo è trasparente in quelli che sono i propri processi produttivi e anche quelli che sono poi i prezzi che vengono realizzati e dati al consumatore, quale modo si preoccupa dei gas serra, della tutela della biodiversità e così via, una serie di informazioni. Sono praticamente più di, le linee guida raccolgono attualmente più di 10 capitoli che coprono le risorse umane, le risorse ambientali, le risorse energetiche ed altre risorse e sono praticamente più di 150 domande che vengono poste all'imprenditore agricolo. Una volta effettuata l'autovalutazione intervengono degli esperti che contestualizzano quelle che sono le aree grigie identificate attraverso degli indicatori matematici e danno praticamente dei pesi a quelle che sono le informazioni raccolte ed indirizzano l'agricoltore a realizzare delle implementazioni, quindi a cambiare il suo modello gestionale verso un modello sempre più sostenibile e l'agricoltore può decidere cosa fare di anno in anno, perché comunque il principio è quello di un progressivo miglioramento. Si è sostenibile nel momento in cui si è consapevoli di quali sono i problemi e si realizzano delle nuove metodologie, nuove misure che permettono di anno in anno migliorarsi sempre di più. Nel corso degli anni poi l'agricoltore può continuare a contare, diciamo così, sul vostro appoggio, sul vostro supporto, perché ci sono ovviamente delle evoluzioni sia nella sua attività sia nella tecnologia e in quello che ci circonda. Sì, infatti, il sistema praticamente è contestualizzato all'interno di un processo che è certificato e che praticamente è costituito quindi da dei consulenti che sono dei veri e propri tutor, che non solo analizzano la condizione e la situazione dell'azienda, ma poi danno dei consigli. E la cosa interessante è che però il sistema non è coercitivo, l'agricoltore sceglie poi le cose che sono da farsi sulla base praticamente di ragioni che sono sempre economiche, cioè utilizzerà, implementerà nell'azienda quello che per lui è più conveniente, che gli porterà un vantaggio visibile e oggettivamente concreto, più facile, più semplice. E in questo modo l'agricoltore ritorna ad essere un vero e proprio imprenditore delle proprie azioni. Per farci degli esempi, ci dica su cosa sta intervenendo Tasca Dalmerita. Ecco, l'azienda sta intervenendo in diversi settori perché è particolarmente attenta a problematiche che riguardano sia la gestione del suolo, sia la gestione degli agrofarmaci, ma soprattutto poi la tutela del paesaggio. Quindi sta intervenendo con una serie di azioni che sono volte alla tutela di quella che sono per esempio i corpi idrici, quindi i loro laghi, per poter aumentare il più possibile quella che è la biodiversità, quindi favorire l'arrivo di un maggior numero di uccelli, di un maggior numero di insetti impollinatori, favorire una diversificazione anche di quella che è la flora, quindi attraverso l'utilizzo anche di miscele, di semi che siano multifloristici, quindi caratterizzati da più specie vegetali. C'è da dire che l'azienda Tasca Dalmerita già parte da delle condizioni che sono molto molto interessanti dal punto di vista della sostenibilità, perché in realtà è un'azienda che si inquadra all'interno di un paesaggio molto particolare e tutto sommato ancora molto sano rispetto ad altre tre realtà italiane. E quello che sta facendo è consolidare questo livello di sostenibilità già raggiunto e lavorare per gradi su quelli che sono degli elementi per loro più importanti. Non solo in campagna, ma poi anche all'interno della cantina, perché sfugge molto spesso che una cantina comunque ha dei problemi per esempio di utilizzazione dell'acqua, spesso si utilizza l'acqua in modo eccessivo, allora è molto importante razionalizzare l'uso dell'acqua perché è una delle risorse più importanti dopo quelle energetiche da tutelare e di conseguenza anche la qualità della risorsa idrica, cioè porgere particolare attenzione a quelli che sono i contaminanti che possono essere prodotti durante la produzione che vanno chiaramente controllati con tecniche adeguate, possibilmente biologiche. Tutto quello che lei ha detto fa venire in mente alcune aree italiane che sono intensamente sfruttate da un punto di vista vinicolo, penso alle Langhe, al Chianti per esempio. A parte le singole aziende che operano in queste realtà, c'è qualcuno che a livello più alto controlla che cosa accade all'acqua, al suolo in queste aree? Questo sicuramente è un'osservazione estremamente acuta. Il problema è legato infatti alle attività delle singole aziende che all'interno di un comprensorio, all'interno di un bacino idrografico si sommano, creando chiaramente dei impatti ambientali che possono diventare dei disastri. Ed è questo il significato del realizzare un processo di sviluppo sostenibile per far fronte a quelle che sono delle grandissime problematiche che oggi emergono soprattutto nella gestione per esempio dei suoli. Sappiamo e siamo al corrente di quelli che sono gli eventi in termini di frane per esempio, oppure di alluvioni che vengono soprattutto negli ultimi anni, si ripetono con una frequenza sempre più elevata a causa anche dei cambiamenti climatici. È indubbio che ci siano comunque degli eventi piovosi che sono molto più intensi rispetto a quelli degli anni precedenti. Ecco che diventa ancora più importante in queste zone, ma sempre a livello di comprensione, poter effettuare una corretta manutenzione di tutto il suolo. E chi lo può fare questo? Lo possono fare soltanto gli agricoltori, perché sono loro che hanno mantenuto fino ad oggi il paesaggio e sono loro che ancora una volta saranno i responsabili di mantenerlo per le generazioni future. Quindi, quando si parla di consapevolezza in termini di sostenibilità, è la risposta alla sua domanda. Il viticoltore deve essere cosciente che ogni sua operazione ha una conseguenza ambientale. Molto spesso non se ne rende conto, anche se è avveduto, perché non la vede all'interno dei limiti della sua azienda, ma all'interno di un comprensorio invece gli effetti sommati ad azioni di altri possono diventare estremamente significativi. Ed è questo il motivo per cui oggi abbiamo ad esempio molti dei nostri fiumi inquinati, o abbiamo un numero di frane che è superiore rispetto a quello degli anni precedenti, oppure abbiamo anche una maggiore sensibilità delle colture, ad esempio dei parassiti, perché l'agricoltore ha visto troppo spesso all'interno soltanto della sua casa, possiamo dire. Ma un programma come Sustain non potrebbe poi essere applicato anche ad altre realtà produttive in ambito ovviamente agricole, che ne so, la produzione delle mele, la produzione degli ortaggi, per esempio? Questa è la nostra grande ambizione, cioè noi siamo partiti con il settore vitivinicolo italiano perché abbiamo incontrato una serie di grandi imprenditori, grazie, l'inizio è stato con Tasca d'Almerita, che sicuramente è un'azienda estremamente sensibile all'argomento, ma abbiamo incontrato anche in parallelo altri imprenditori che sono interessati, quindi sicuramente saranno le prossime aziende pilota che si associeranno a quella di Tasca d'Almerita. Vorremmo utilizzare questa esperienza come modello di riferimento, perché esistono molti più imprenditori motivati e anche delle esigenze di mercato evidenti, soprattutto nel mercato californiano, australiano, che stanno richiedendo un marchio di sostenibilità, per poi trasferirlo ad altre realtà, ad esempio il riso, dove esistono praticamente elementi analoghi per poter contestualizzare la sostenibilità e quindi l'intera filiera produttiva nei nostri territori, quindi soprattutto valorizzando quelle che sono le tradizioni, oltre il rispetto per l'ambiente e il rispetto sociale dell'attività agricola. E poi passare successivamente sempre al pomodoro, perché siamo al corrente che aziende, l'agroindustry, soprattutto alcune grosse multinazionali, iniziano a richiedere anche loro le produzioni di pomodoro sostenibili. E quindi speriamo praticamente nei prossimi anni di trasferire questo modello che andrà chiaramente adeguatamente tarato in ogni specifica situazione. Sustain è un programma messo a punto da un gruppo di ricercatori che lei coordina. Che cos'è che ha acceso la vostra attenzione? La scintilla è prima di tutto la conoscenza dei problemi che affliggono il sistema agricolo e il sistema ambientale che praticamente lo circonda, e poi chiaramente anche un futuro poco roseo per quelle che sono le produzioni di per sé, le produzioni agricole, ma anche quello che è il futuro dei giovani ricercatori, ma anche dei giovani laureati. Perché dice poco roseo? Siamo davanti a un cambiamento della gestione agricola e anche della gestione di quelli che sono i prodotti agricoli alimentari, ed è chiaro che questo richiede un cambiamento non solo da parte degli imprenditori agricoli, che devono modificare i propri modi di rapportarsi con l'ambiente e con i loro campi, ma anche con il consumatore, ma richiede anche una formazione, un'educazione nuova da parte dei nuovi laureati, quindi anche dei giovani ricercatori, perché devono affrontare dei problemi che sono molto molto diversi da quelli degli anni precedenti. Grazie professor Capri, ricordiamo dell'Università Cattolica di Piacenza, il programma di cui abbiamo parlato oggi per la sostenibilità nell'ambito della viticoltura si chiama Sustain, scritto SOS Tein, quindi se volete altre informazioni le potete senz'altro reperire su internet oppure contattare direttamente il professor Capri all'Università Cattolica di Piacenza. Grazie per essere stati con noi in questa puntata di Respiro. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.